Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Signori! O dunque, vogliamo metterci in posa allora? Se proprio lei insiste, signor Preside, ma io vengo sempre così male in fotografia. Gli alunni dell'ultima fila sulla panca. Orbene, Tassotti! Signor Preside, ma sono mica stato io! Fermi così, per favore. Fermi così, là! Fatto! Siamo oramai tutti abituati, da parecchie generazioni, quindi, parlando un ragazzo degli anni 50, diciamo dai miei bisnonni ampiamente, ma forse anche più, anche dai genitori dei miei bisnonni, ad avere la raccolta dei nostri momenti epici attraverso delle fotografie. Naturalmente, con il passare del tempo, queste raccolte di fotografie si sono andate via via specializzando. Le foto dei miei nonni erano pochissime, ne rimane ancora una traccia fisica concreta, piuttosto labile, corrotta. Io molte le ho digitalizzate proprio per potermele tenere, per potermele conservare, perché ahimè la materia organica di quelle prime foto tende sempre più all'evanescenza. Delle foto dei bisnonni ce ne sono pochissime. Ho la foto di una sorellina di mia nonna che è morta bambina e l'avevano fotografata. E c'è questa bambina morta, aveva avuto, non so, i mali che potevano esserci a quei tempi, sarà morta di polmonite, di poliomielite, non lo so. Era morta di un male molto giovanissimo, aveva avuto pochi anni, 5-6 anni. Erano tutta infagottata con un vestitino bianco, messa lì esposta nel salotto in mezzo ai mobili. E mi ricordo ancora mia nonna portava al collo dentro un medaglione la foto della sorellina morta, ma che sarà morta 70 anni prima, 80 anni prima. La portava, l'apriva e ancora piangeva. Per lei si era fermata quell'immagine, era il ricordo della sorellina morta. Poi andando avanti, naturalmente, ci sono le foto dei miei genitori giovani. Erano pochissime foto, erano le 5-6 foto che mi ricordo da bambino avevo in casa, erano messe nelle cornici. Sono passate di scatola in scatola, poi c'è stata la distribuzione delle foto ai figli e poi anche queste, a mia volta, le ho digitalizzate, le ho acquisite. Perché? Perché nella loro forma fisica erano destinate comunque alla scomparsa. Poi erano molto più piccole, diverse, una volta digitalizzate a 300-600 dpi, entrano nella loro grandezza, vedo meglio i particolari, diventano un'altra cosa, le posso trasferire. Ho una foto di me piccolissima, la mia prima foto in assoluto, sono io avvolto in una copertina, una foto che poi è stata ritagliata e non ha il contesto, non so se ci sia attorno, vedo delle mani, delle braccia di altri personaggi, evidentemente erano forse parenti sgraditi, non so per quale ragione questa sorta di taglio analogico, questa selezione familiare sia avvenuta. Quella comunque era la mia prima foto, avrò avuto pochi mesi. Poi ho avuto altre foto epiche che mi hanno seguito per tutta la vita, che sono scomparse, riapparse, poi me le mandavano gli amici dopo tanti anni perché a loro volta le avevano ritrovate, digitalizzate e me le hanno mandate via mail. Tutto questo per farvi capire che la nostra vita in fondo è legata ad alcune foto. Non abbiamo nessun altro ricordo oggettivo, testimonianza di attimi vissuti e fermati se non le fotografie. Ma questo è qualcosa di formidabile, di fondamentale. Voi pensate quando non esisteva la fotografia, chi poteva si faceva un ritratto, ma era ben altra cosa. Poi arriviamo alla contemporaneità, tanto per darvi tutto il quadro di quello di cui voglio parlare oggi. Sotto le feste si fanno le foto, avrete fatto le foto davanti all'albero, le foto degli scartamenti dei regali. Io ho i filmati dei miei figli che scartano i regali perlomeno per 6-7 anni. Cambiava l'oggetto con cui li riprendevo. Le prime telecamere andando avanti, oggi gliele farei, ma sono belli grossi, comunque con il telefonino, ma comunque da qualche parte rimangono. Vedo il crescere dei miei figli, vedo il loro progredire, vedo rimanere immobili alcuni oggetti di casa, sempre lo stesso pavimento, cambia molto più difficilmente, sempre lo stesso albero, l'albero è sempre lo stesso, oggi gli alberi sono di plastica, si rimettono in una scatola e si ritirano fuori. gli addobbi sono sempre gli stessi, ma in fondo i figli crescono, prima coi pigiamini, poi più grandi, poi oggi sono dei giganti. Faremo il filmato davanti all'albero perché rimane la tradizione, rimane questa sorta di liturgia di lasciare una scansione fotografica di un attimo che ha un senso perché si ripete, quindi nel suo ripetersi ci accompagna lungo la nostra vita. Ma noi che fotografiamo cambiamo, siamo diversi, invecchiamo, cresciamo, ci evolviamo e via dicendo. La foto lascia tutte tracce del nostro passaggio. In più, oggi c'è una compulsività che non vedo assolutamente come negativa, a me piace, di fotografarsi in ogni istante. Il presidente degli Stati Uniti, alla cerimonia commemorativa di Nelson Mandela, si è fatto un selfie insieme al primo ministro, adesso non ricordo bene, danese mi sembra, una bella signora, e la moglie guardava molto accigliata. Perlomeno quella è la foto che noi abbiamo visto, che ci ha reso epico quel passaggio, un momento di trasgressione del presidente degli Stati Uniti, nero anche lui, alla commemorazione del leader assoluto dell'affrancamento delle persone di colore, si fa una foto con una bella signora bionda mentre la moglie accigliata guarda. Il selfie è la parola più usata in rete. Un famoso vocabolario americano ha detto che selfie è in assoluto la parola più usata. Cos'è il selfie? È l'autoscatto, è la foto che ognuno si fa con il proprio palmare, con lo smartphone, e pubblica immediatamente in un social network per condividere con gli amici. È la foto di se stessi. I selfie più usuali sono quelli di signore davanti allo specchio che si scattano con il loro telefonino una foto umbratile, romantica, con degli sfondi che vorrebbero alludere chissà a un boudoir, quando magari una triste cameretta squallida di signora Zitella, oppure di madre di famiglia che ha in terra ancora i pannolini sporchi dei figli. Però il selfie di fronte allo specchio dà qualcosa che è pittorico, antico, retro. E poi esiste l'ultima fase, la fase di rendere epico ogni istante la nostra vita trasformandolo in fotografia. Oggi chiunque di noi può ogni momento pubblicare qualcosa di se stessi. Non esiste più l'album che scandiva alcuni momenti fatali nella vita delle persone, quando nasci, quando ti sposi, quando fai il militare, quando hai tutti i figli davanti. No, oggi ogni istante. Si è perso il senso di epicità dei nostri istanti perché tutti gli istanti possono essere fotografati. Beh, mai come un giorno che probabilmente molti di voi fotograferanno, mi andrà di parlare oggi di cosa significa la fotografia nel lampo veloce e fuggevole della nostra esistenza. Ah, guarda questa che bella foto. Guarda. La macchina è bella, eh? Ma che bella, me la ricordo. Questa è proprio buffa. Ma questa mi dispiace, ma sparisce. Le foto di famiglia ritraggono volti sorridenti. Nascite, matrimoni, vacanze, feste di compleanno dei bambini. Si scattano fotografie nei momenti felici della propria vita. Chiunque sfoglia un album fotografico ne concluderebbe che abbiamo vissuto un'esistenza felice e serena, senza tragedie. Nessuno scatta una fotografia di qualcosa che vuole dimenticare. Ehi, noi andiamo. Questo è vero fino a un certo punto, perché oggi, anzi, questa sorta di necrofilia della condivisione della foto è molto sviluppata. Qualche giorno fa era girata la notizia che la foto di un'impiccagione, mi sembra in Iran, di due omosessuali era stata condivisa da un numero incredibile di persone. Girano molto anche foto di eccidi, di torture, di momenti che nulla hanno di epico se non di orrifico. Ma è importante fare un punto innanzitutto su quello che ha significato la fotografia nella storia dell'umanità. A un certo punto gli uomini hanno avuto delle fotografie che rappresentavano la realtà, dei momenti, la realtà, e non è esattamente la stessa cosa di quando potevano comunque fare delle rappresentazioni pittoriche della realtà. Su questo hanno molto riflettuto due persone in un libro che è uscito proprio da poco tempo, Filosofia della fotografia, Raffaello Cortina editore, a cura di Maurizio Guerri e Francesco Parisi. Maurizio Guerri lo abbiamo al telefono. Maurizio Guerri, buongiorno. Buongiorno. Insegna filosofia contemporanea, storia della comunicazione sociale presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, e appunto insieme a Francesco Parisi ha scritto questo volume, Filosofia della fotografia. Ho fatto un ampissimo preambolo perché volevo entrare nel clima post natalizio di chi ci ascolta, però mi interessa molto quello che lei e il suo coautore avete scritto in questo libro. È stato veramente un momento di radicale importanza quando noi abbiamo cominciato a delocalizzare il nostro senso della vista in una macchina che ci lasciava brandelli di realtà oggettivamente visibile a tutti. Noi abbiamo appunto in questo volume abbiamo cercato di confrontarci con quelli che a noi sono sembrati i momenti più importanti, di tentativi più importanti di comprensione di che cosa è cambiato nell'uomo con la nascita della fotografia. Cioè abbiamo cercato, come dire, di prendere sul serio la fotografia, non come una sorta di qualche cosa che si aggiunge a una essenza immutabile dell'uomo, ma abbiamo cercato di considerare la fotografia come un momento in cui l'uomo cambia, un momento in cui l'uomo si trasforma dal punto di vista della visione, quindi dal punto di vista della sua, di quella che perlomeno all'interno della tradizione occidentale non solo è il momento conoscitivo fondamentale. Ma per questo ci sono sempre stati dei pregiudizi, almeno agli inizi, agli albori della fotografia, ma tuttora permangono questa sorta, certo, di iconoclastia, per cui in fondo la fotografia in parte rubava qualcosa alla persona, in parte toglieva l'uomo la capacità di un'esperienza concreta, reale, individuale, proprio perché una cosa viene fotografata, la vedo in fotografia, magari posso pensare di poter fare a meno di andarla a percepire con i miei stessi sensi. Certo, diciamo che fin da subito, fin dalla nascita della fotografia, c'è stata questa preoccupazione di vedere l'uomo, per così dire, derubato di una parte dell'esperienza, di una parte del rapporto con quella che si definisce la realtà. In verità gli autori che noi abbiamo cercato di raccogliere, se da una parte, come dire, non si lasciano incantare, per così dire, da un eccesso di realismo o da un iperrealismo di cui la fotografia sarebbe portatrice rispetto agli antichi strumenti di rappresentazione, tra cui appunto la pittura, nello stesso tempo non c'è nemmeno una forma di appunto di iconoclastia fotografica o una sfiducia, una sorta di pessimismo legato alla condizione dell'uomo nell'epoca dello sguardo fotografico. Tutti gli autori che abbiamo raccolto in questo volume, sostanzialmente dall'inizio del Novecento fino al mondo contemporaneo, cercano di non tanto appunto di parlare del tramonto dell'esperienza o del tracollo dell'umanità in coincidenza con la nascita dello sguardo fotografico, quanto di cercare di comprendere come appunto il modo di guardare sia cambiato. Ma io penso soprattutto in questi ultimi momenti che noi abbiamo una nostra appendice capace di fotografare sempre addosso, fino a nemmeno tanti anni fa, anche già agli inizi della fotografia digitale, comunque bisogna avere un apparecchio fotografico, uscire con una macchina fotografica. C'è chi lo faceva abitualmente, chi lo faceva soltanto quando andava in vacanza, quando andava in certe occasioni particolari, alle feste, ai battesimi, ai compleanni, ai matrimoni. Oggi, sempre, ogni istante, la nostra vita, comunque abbiamo a disposizione un apparecchio di riproduzione fotografica. Anche questo cambia notevolmente. Io oggi, se mi danno un documento che mi interessa, me lo fotografo, poi me lo guardo a casa con calma. Nella migliore delle situazioni, quando vedo qualcosa per strada che mi interessa, lo fotografo, poi me lo riguarderò, lo archivio. Oggi esiste una fantastica maniera di archiviare il reale e immagazzinarlo all'istante. Certo, ma interessante che autori appunto che evidentemente non hanno avuto modo di conoscere gli apparecchi digitali come Moli Nagy oppure Walter Benjamin, giusto per citare due importantissimi autori, avevano già per così dire compreso le potenzialità che erano contenute all'interno della fotografia. La Molinaggi parla appunto di un archivio domestico delle immagini che si sarebbe sempre più ampliato e sarebbe stato sempre più alla portata degli uomini, e appunto Molinaggi in accordo con quelle che erano le inclinazioni della Bauhaus cercava appunto di ragionare sulla non tanto sulla contrapposizione tra arte e fotografia o tra produzione industriale e produzione artigianale, ma appunto lui parlava di una nuova educazione estetica dell'uomo a cui bisognava pensare con la nascita della fotografia e con gli sviluppi che erano contenuti. Certo, professor Maurizio Guari, devo dire che l'evoluzione è talmente veloce che oggi nemmeno più si può parlare di archivi familiari, si parla di archivi individuali, la condivisione non è più nemmeno data da un passaggio fisico, ma anche se non un po' più fisico, volontario. Oggi quando abbiamo gli album online, ognuno di noi le proprie foto le scatta ogni momento e le mette online, le mette nei cloud, le mette nei grandi raccoglitori di foto condivise, condivisibili. Poi parleremo anche del fenomeno Instagram, che è uno dei più evidenti motivi per cui tutta l'idea del social network venne assorbita dal fatto che la cosa più importante è condividere immagini. Ormai è il grande album dell'umanità a cui ognuno dà il suo contributo. Certo, no, di sicuro, questi autori hanno avuto, a mio avviso, proprio perché guardavano alla fotografia in maniera non pregiudiziale, cioè non concepivano la fotografia semplicemente come oggetto o come qualcosa che si aggiungeva a una predefinita essenza dell'uomo, ne riuscivano anche a cogliere quelle che erano appunto le potenzialità in via di sviluppo. E quindi, ad esempio, il tema dello sradicamento delle immagini da un patrimonio individuale o familiare e il tema della condivisione, della viralità delle immagini, della serialità delle immagini e della possibile creazione di un per così dire di un album globale sempre disponibile e sempre condivisibile era qualcosa che sicuramente ha attraversato gran parte delle riflessioni novecentesche sulla fotografia, perlomeno diciamo quelle che a noi interessavano. Che appunto ecco, io professore adesso volevo introdurre, proprio rispetto a quello che dice lei, un'altra idea legata appunto all'aspetto della fotografia legata ai momenti della storia, non tanto alle situazioni familiari individuali quanto alle situazioni diciamo pubbliche, storiche, epocali. I miei clienti non se ne rendono conto, ma le istantanee sono il loro modo di esorcizzare il passare del tempo. Il diaframma scatta, il flash abbaglia e così fermano il tempo. E se queste immagini potranno mai avere un significato per le generazioni future, sarà questo. Io c'ero. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento. Quanti possono dire, legati alla nostra storia patria, che è raccontata, diciamo, nelle sue fasi più remote, da epici quadri, rappresentazioni, allegorie, statue nelle piazze, monumenti, documenti, tomi, feste, commemorazioni, ma da un certo punto in poi è cominciata a essere raccontata attraverso fotografie, in cui qualcuno può dire io c'ero, ma fino a che punto può dirlo veramente io c'ero? La fotografia accompagna proprio la storia del nostro Risorgimento. E noi abbiamo un primato abbastanza invidiabile, cioè nel 1849 un italiano, Stefano Lecchi, fece il primo reportage fotografico di guerra durante la Repubblica Romana del 49, proprio perché si capì che la fotografia aveva uno strumento fondamentale non solo per documentare il reale, ma anche per fare propaganda politica. E infatti nell'Ottocento è una cosmesi del reale, cioè aumentava il valore del reale, diciamo così, avevano capito questo. Sì, che diventava una maniera proprio di amplificare la testimonianza del reale, diventava uno strumento patriottico, tant'è che nel 1850-60 si vendevano le foto di Garibaldi per sovvenzionare le imprese insurrezionali. E quindi come dei santini praticamente. Erano dei santini veri e propri, soltanto che erano laici e c'era la fotografia dell'eroe risorgimentale. Quindi, ma ad esempio, abbiamo parlato altre volte a questi microfoni, quindi non faccio finta di non saperlo. La epica foto della breccia di Porta Pia, se la guardi adesso fa ridere, sembra fatta da un bambino che ci ha incollato sopra le figurine. Però quando venne realizzata quel falso fotografico così clamoroso, la cosa importante è non che fosse vero o falso, ma che fosse in qualche maniera verosimile. Era verosimile testimoniare in quel modo così eclatante la vittoria dello Stato italiano sul Regno della Chiesa. E questo anche c'era sempre lo stesso soldato clonato e riprodotto più volte in vari posti della foto con delle proporzioni ridicole. Si vedeva che era un fotomontaggio, perché di uno ne hanno fatti 100, però funzionava, aveva un senso. Aveva un senso perché aveva un senso politico. E insieme alla nascita della fotografia nasce anche la falsificazione della fotografia. E quindi il fatto che uno dice la foto è reale, no. Fin da quando nasce, quindi fin dal 1839 in poi, esistono le foto falsificate, modificate, ritoccate, anche senza Photoshop. Poi diciamo, proprio nel Risorgimento, anche questo una volta ci ha parlato, c'era stata l'idea di fare la grande raccolta delle figurine dei grandi personaggi legati al Risorgimento. Quello è qualcosa che a noi ci dà un primato, in fondo. Sì, perché fotografo che era Alessandro Pavia fece le foto ritratti di tutti i partecipanti dei Mille e fece proprio questo album fotografico collettivo e nazionale che era un po' l'epica nazionale in fotografia. Ma rispetto all'intervento anche che mi ha preceduto, io direi che il cambiamento sostanziale è che mentre nell'Ottocento per fare la fotografia serviva comunque un apparecchio fotografico e un fotografo professionista, agli inizi del Novecento, con la macchina portatile, lascia la fotografia istantanea che cambia tutte le cose. Tant'è che la fotografia della Prima Guerra Mondiale è radicalmente diversa da quella risorgimentale. Che a volte erano proprio degli ufficiali che erano più avanzati degli altri, facevano le foto di quello che accadeva in trincea, dei combattimenti, delle attese. Non solo, ma si portavano la loro macchinetta nella tasca della divisa proprio per documentare la loro guerra. E queste foto spesso erano censurate perché facevano vedere una guerra che non era quella che lo Stato Maggiore d'Esercito voleva far vedere. Anche il fascismo ha dato un'importanza alla fotografia. Il fascismo ha fondato la sua politica di propaganda sulla fotografia e sul cinema. Non a caso tutte le foto di Mussolini dovevano avere il visto personale del Duce, che sennò non potevano essere stampate, pubblicate, editate. Anche lì c'era una grande trasformazione. Diciamo, tutte le foto del Duce ufficiali erano delle trasfigurazioni, la mascella volitiva, poi nella realtà non era così. Ma comunque si era creata una sorta di immagine archetipica del grande condottiero che non era la realtà, quindi era sempre una contraffazione del reale in questo caso. Non solo, ma siccome Mussolini era molto attento alla sua immagine, i suoi fotografi avevano dei protocolli da seguire, cioè la macchina fotografica doveva essere sempre ribassata rispetto a lui, doveva sembrare più alto. E doveva essere ripreso con un profilo piuttosto che un altro, cioè c'era tutto un protocollo che il fotografo doveva seguire, proprio perché la sua immagine doveva essere comunque marziale, severa, imponente e comunque doveva essere in qualche maniera mistificata e militarizzata. Questo era poi l'oggetto fondamentale della politica di immagine. Grazie Marco Pizzo, ci fermiamo un istante. Come vedete, andando avanti nel nostro racconto, ci capiamo quanto la fotografia può diventare un elemento costitutivo del nostro immaginario, ma non soltanto. I pezzi di storia che noi vengono trasportati nel tempo sono legati fortemente comunque a delle rappresentazioni fotografiche, alle quali non si chiede poi necessariamente uno sguardo oggettivo sul reale. L'importante è che sia uno sguardo condiviso e quindi assume una sua realtà e una sua consistenza. Melog. Cronache meridiane. Quasi nessuno fotografa le piccole cose. Il cerotto usato, il gestore della pompa di benzina, la vespa sulla marmellata. Ma queste sono le piccole cose che raccontano la vera storia della nostra vita. E la gente non scatta fotografie di queste cose. Ho visto che qualcuno ha passato un bel compleanno. Le ho stampate 13-18. No, le volevo 10-15. più grandi vengono meglio. Non le ho fatto il prezzo maggiorato. Va bene lo stesso. In quanto le devo, sai? 37, ma arrotondiamo pure a 30. Grazie. C'è un regalo speciale per chi festeggia il compleanno. Riprendiamo a parlare della fotografia, della centralità della fotografia, nella nostra esperienza, nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nel porsi anche noi stessi di fronte alla memoria della nostra esistenza, allo strascico dei nostri momenti passati, alla catalogazione della nostra vita attraverso delle foto. Oggi è molto più difficile farlo, anche se tecnicamente più facile. Oggi basta guardare la cronologia del proprio social network. Io penso che sto da almeno 5 anni probabilmente su Facebook. Facebook puntualmente ti fa vedere anno per anno le foto importanti del tuo anno. Lo decide lui, non sono tutte le foto che ha postato uno anno dopo anno, ma se nel primo anno se ne mettevano 50, nel secondo 100, nel terzo arrivano a metterne migliaia. Perché? Perché sono sempre più facili e facilmente usabili gli strumenti di acquisizione. Le ultime generazioni degli smartphone, immediatamente scatta la foto, immediatamente la puoi pubblicare e condividere. Non devi fare alcune operazioni, ricordo che andavano fatte fino a qualche anno fa, quando ancora non era così immediato, così semplice. Quindi viene la frenesia di mettere sempre più cose. È sempre più facile avere un database molto vincolato dal criterio di discernimento di chi gestisce comunque il client che ci permette di pubblicare la nostra vita, comunque è più facile averlo. È molto più difficile una volta, c'erano i momenti singolarmente dedicati all'apertura delle scatole della fotografia, andava bene sotto Natale, quando un figlio si sposava e partiva, quando facendo i debiti grattamenti qualcuno moriva, si tiravano fuori le foto e si guardavano, si riguardavano, si accarezzavano, si toccavano. Oggi è ben diverso. Come cambia la percezione della realtà, questa mutazione della possibilità di avere una riproduzione tecnica della realtà? L'abbiamo fatto questa mattina, lo stiamo facendo assieme a Maurizio Guerri, che assieme a Francesco Parisi ha curato il libro Filosofia della fotografia, Raffaello Cortina editore, che è proprio una raccolta di saggi di importanti pensatori che hanno detto la loro su quanto la fotografia abbia creato questa mutazione della percezione. Ma vorrei far entrare nel dibattito un amico che è Stefano Moriggi. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Moriggi è un filosofo della scienza, è uno storico, ma con lui spesso abbiamo fatto varie riflessioni pubbliche e private su quanto la tecnologia poi in realtà ci aiuti a conservare il nostro aspetto umano, piuttosto che a demolirlo, a sostituirlo come molti temono e paventano. Anche in questo caso, Stefano, in fondo la fotografia è una ulteriore prova della nostra umanità, la facilità con cui noi abbiamo possibilità di memorizzare e catalogare la nostra vita. È anche una opportunità quella di riflettere sulla fotografia, su quanto la tecnologia sia cultura e non semplicemente strumento. La fotografia, avete detto, è stata occasione di retorica per l'ideologia, di costruzioni di falsi, ma è emerso in tutti i discorsi, dalla modernità per tornare al Risorgimento e quant'altro, per esempio l'elemento della condivisione. Vorrei ricordare, ad aggiungere a quanto avete detto, che il più importante, dominante social network di questi giorni, cioè Facebook, nasce da un album fotografico, cioè l'idea, la matrice di fondo è l'album fotografico dei college anglosassoni, dove venivano riportate le fotografie degli studenti che si congedavano perché avevano finito di studiarci. Quindi anche lo strumento apparentemente tecnologico, accessibile ed evoluto, dove tutti adesso pubblicano immagini dalle più fondamentali alle più inessenziali, ha come matrice quella vecchia, apparentemente vecchia tecnologia che ha cambiato la percezione sia della storia e dei suoi momenti, ma anche la percezione e la fruibilità delle immagini. Mo ti dico una cosa, Stefano, folle idea è venuta in questo momento, ma questa facilità che sarà sempre più metabolizzata da quelli più giovani di noi, per mio figlio Filippo, che tu conosci, è abbastanza normale, non si pone più nemmeno il problema. È realmente una protesi, un prolungamento del suo apparato ottico fare questo tipo di operazione. È anche un potenziamento della nostra memoria, della nostra coscienza. È come se noi avessimo potenziato il nostro hard disk, la nostra RAM, che forse è più esatto, se vogliamo fare delle metafore legate a al computer, avendo questa possibilità. Noi sempre più abbiamo possibilità di avere delle periferiche in cui mettiamo parte la nostra memoria. Quindi abbiamo ampliato la nostra memoria biologica. Ma quella biologica è difficile dirlo. Sicuramente abbiamo modificato e continuiamo a modificare non tanto e non solo il nostro immaginario, ma la possibilità di riscriverlo costantemente, la possibilità di disporre e cancellare, apparentemente cancellare, ma di riscattare anche a costo basso una quantità di immagini incontenibili è sicuramente una nuova metodologia di riscrizione dell'immaginario che prima non c'era. Mi pare che in qualche puntata fa tu ti sia occupato anche della quell'incontinenza di autoritratto che è il selfie, sì, attuale, che è una di queste frontiere apparentemente insignificanti, ma che in realtà denota un sintomo di questa evoluzione di pratiche legate a uno strumento prima indisponibile. Riprendo a parlare con Maurizio Guerri, che ricordo che insegna filosofia contemporanea e storia della comunicazione sociale all'Accademia Belle Arti di Brera e è coautore di questo libro sulla filosofia della fotografia. Tra i pensatori che avete raccolto nel vostro libro c'è chi si pone anche il problema, prima anticipando con l'evoluzione della fotografia, di quello che dicevamo con Morigi, cioè di una sorta di appendice alla nostra memoria individuale. La fotografia ci permetterà di avere molto più di esperienza a portarcela dietro rispetto a quella che avremmo potuto immagazzinare con i nostri semplici sensi, cioè qualcosa di più oltre al prolungamento del senso della vista, la delocalizzazione della vista. Sì, sicuramente. Diciamo che come si diceva prima, qualsiasi apparato di carattere tecnico ha sempre suscitato l'idea che questa apparizione tecnica portasse con sé la perdita dell'esperienza e un'aggressione, per così dire, al nucleo forte di umanità dell'essere umano. Questo problema evidentemente si ripropone a maggior ragione con la fotografia, visto che la fotografia ha a che fare con la visione, quindi con il canale conoscitivo più importante dell'uomo. E le posizioni sono assolutamente diverse. C'è chi ha gridato evidentemente allo scandalo, alla disumanizzazione e allo sradicamento dell'uomo, ma diciamo noi di questo versante sostanzialmente non ci siamo a questo versante non ci siamo interessati, e c'è invece chi soprattutto ha cercato di osservare la specificità del mutamento che è avvenuto, e quindi il tema della condivisione, dello scambio, della fluidità delle conoscenze è sicuramente uno dei temi centrali che accompagna gli autori che abbiamo preso in considerazione. In modo particolare noi di solito siamo abituati a considerare la fotografia come una rappresentazione realistica della realtà, tanto che insomma ancora oggi noi giriamo con documenti che hanno appiccicato una nostra immagine fotografica del nostro volto. Tanti di questi autori sottolineano come invece la fotografia abbia a che fare con una derealizzazione, con una forma non mimetica della rappresentazione. Cioè lo dicono quando ancora probabilmente non c'era il pregiudizio così forte che c'è oggi sulla veridicità di una fotografia, data dai sistemi di fotoritocco, di mistificazione delle immagini alla portata di tutti. Una volta lavorare sull'immagine era proprio di alcuni professionisti raffinati, oggi chiunque, ci sono le applicazioni che ti permettono, ne parleremo fra poco, di dare anche una patina di tempo alle foto che tempo non hanno, ma di cambiare qualunque cosa. E anche la certificazione fotografica in un documento si va spostando sempre più all'idea, ci mettiamo il riconoscimento dell'impronta digitale, ci mettiamo il riconoscimento vocale o altri tipi di idea, che comunque non basti più l'immagine a certificare l'esistenza di una persona. Certo, ma appunto questo aspetto molto interessante, perché si ricordava prima che il fotoritocco nasce sostanzialmente con la fotografia, ma è interessante appunto osservare come molti di questi autori, penso ad esempio a Walter Benjamin, ma anche a Krakauer, si concentrano per esempio sul fotomontaggio come una delle possibilità contenute all'interno della fotografia di ripensare e di ricostruire anche da un punto di vista ottico-visivo la realtà, e questo non viene sentito come una come dire, come una falsificazione della realtà, ma come una chance come una chance politica. Beh, come diventa, diventa anche un aggiungere un aspetto di punto di vista soggettivo, artistico, individuale, di mediazione sulla fotografia. Fotomontaggio è il termine magari più brutale, ma le foto d'arte sono foto che hanno una loro elaborazione, uno studio, anche la luce. Cambiare semplicemente la luce o studiare la luce su una foto significa comunque creare un'irrealtà attorno al soggetto che si fotografa, se no altrimenti la pura visione retinica di come vediamo una cosa non può essere una foto d'arte. Ecco, la foto d'arte permette un'elaborazione, quindi la fotografia non è più quello strumento brutale di presa diretta e istantanea della realtà, diventa qualcosa che comunque sì, ha una sua oggettività, perché tutti la possiamo vedere, e è realistica rispetto a un disegno fatto a matita o fatto con i colori a olio da un pittore, ma comincia a entrare comunque anche dei punti di vista che hanno il loro valore proprio legato al fatto di chi l'abbia lasciati questi punti di vista, quale sia stata la sua interpretazione. Ogni foto è un'interpretazione. Melog, cronache meridiane. Questa applicazione si chiama Instagram. Instagram è un social network fotografico che permette a tutti gli utenti di iPhone e Android, non so se esiste anche per altri sistemi operativi, permette di utilizzare la fotocamera del proprio telefono per realizzare delle foto e applicare anche degli effetti fotografici vintage. Questa applicazione, che adesso mi pare sia gratis, non mi ricordo più. Questo naturalmente è una lettura molto sommaria, antica, superficiale, fatta da una ragazza che, come tanti fanno, per lasciare epiche tracce del suo passaggio esistenziale, su YouTube racconta cosa sia Instagram. Ma è un po' datato, perché oggi chiunque lo sa, essendo il social network più frequentato, è il luogo in cui si condividono foto fatte con una particolare applicazione che è la più nota, ma ce ne sono anche altre, se no sembra che parliamo solo di Instagram, ma ce ne sono tantissime oggi. Instagram è quella più nota, è quella classica, che permette di fare una foto, di applicare immediatamente dei filtri che a quella foto danno una patina di tempo passato. Puoi fare una foto come l'avresti fatta negli anni 70, negli anni 80, una foto virata in una certa maniera. Poi, andando avanti, altri sistemi, permette di mettere una cornice a quella foto, di dare ancora altre stratificazioni. È un po' come, immaginate un falsario come nei film, che dipinge un quadro o costruisce un mobile per essere antico, poi lo antichizza, quindi ci butta sopra gli acidi, quindi lo sforacchia, quindi lo rovina. Permette di fare delle foto antichizzate. Qual è il senso di tutto questo? La mia lettura personale, in questa grande e fantastica follia, è che i filtri che oggi vengono dati in rete per condividere delle foto che abbiano un senso artistico hanno due valori essenziali. Primo, ognuno può avere la possibilità di fare delle foto che possano sembrare o a tutti gli effetti siano delle foto artistiche. Una volta solo un grande fotografo potrà capire, studiando, che certi filtri, certi effetti davano valore a una foto. Secondo, è la necessità comunque di storicizzare i nostri momenti, di dargli epoca in cui non siamo vissuti. Una foto di mia madre me la ricordo perché la vedo che è fatta negli anni 60-70, lo capisco che è una polaroid, lo vedo dalla cornice, dai colori sbiaditi. Una foto di mia nonna lo vedo come è fatta posata, come è stata ritoccata, come è stata virata. Le mie foto le riconosco a seconda delle epoche. Una foto fatta con Instagram può essere fatta 5 minuti fa e può sembrare tutte queste foto che io ho elencato. Ho al telefono un ospite che su Instagram ne sa sicuramente più di tutti quelli che abbiamo sentito e citato, perché è responsabile marketing e comunicazione degli Instagrammer d'Italia, cioè quelli che pubblicano foto su Instagram, e segretario dell'associazione Instagrammer Italia. Orazio Spoto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi come si creano delle comunità di esseri umani attorno all'idea di fare delle foto che rappresentano momenti della contemporaneità, però con tinte, effetti e sapori di altre epoche? Allora, noi li chiamiamo Instagrammers, sono divisi in realtà in tutto il mondo. In particolare l'Italia è senza dubbio un esempio di eccellenza, perché è l'unica nazione che si è saputa organizzare creando nel marzo di quest'anno una associazione e dividendosi poi per aree regionali e locali. Diciamo che Instagram ha superato Twitter, per dire, nei social network, sì. Quindi è usatissimo. Quindi sì, la fotografia sì, è la prima ragione di condivisione in rete praticamente. Esatto, e la cosa bella è che in realtà Instagram è sempre più diventato un attivatore di contenuti su altri social network, nel senso che per esempio Facebook, che nasce per la condivisione degli status, oramai quando viene condiviso un contenuto su Facebook, nell'80% dei casi si tratta di immagini, magari arrivate da Instagram. Quindi il concetto di immagine che è partito da Instagram si è in realtà esteso a tutti gli altri social network. Ma è facile vederlo, chi ha un profilo Facebook pubblico, che ha gli indicatori comunque, ti dicono il traffico sul tuo profilo, lo vede che i post più condivisi sono quelli che partono da una fotografia, dove la gente mette like oppure mette un commento. L'iconografia prevale su tutto. Esatto, e ormai è un dato di fatto, tant'è infatti che si è anche un po' superata la fase in cui ci si voleva improvvisare, perché per molti chiaramente si tratta di improvvisazione, dei fotografi d'arte, quindi anche in grado di gestire e di giocare con filtri ed effetti speciali, un po' come si fa quando magari si vuole fare il filmino delle vacanze, uno utilizza un software con quelle animazioni un po' strane, anche un po' pacchiane, che dopo un po' chiaramente... Sì, come i film dei matrimoni fatti nei paesi. Bravissimo. Che ci sono i lampi di luce, i viraggi seppia che non c'entrano niente... Esatto, che non è arte, è pacchianeria. Sì, una grezzata. È chiaro, poi naturalmente con il tempo si acquisisce un proprio stile, quindi o si lascia più che altro un po' più all'autenticità e quindi si evitano i filtri, magari al limite si fanno dei lievi passaggi, oppure chiaramente si diventa più bravi, più saggi e si utilizzano questi stessi filtri in maniera adeguata. Ed è un po' quello che sta succedendo già da un po' di tempo su Instagram, nel senso che Instagram continua a crescere. Ecco, rispetto alla descrizione ormai chiaramente superata e veniva fatta tempo fa da quella ragazza su YouTube, Instagram è anche disponibile su Windows Phone, quindi ha praticamente raggiunto 3 delle 4 principali piattaforme mobile, manca solo quella di BlackBerry per essere un po' ovunque. E nel frattempo gli utenti che si iscrivono o che sono già su Instagram tendono ad utilizzare Instagram come un diario personale. Quindi cominciano anche a togliere l'effetto, non vogliono più modificare la loro esperienza. La postano, come si dice in gergo, in tempo più o meno reale. Ecco, ma la differenza adesso... Allora, mi piace questa idea che dopo l'esplosione, l'euforia, si lavori per sottrazione. Ormai che lo strumento di condivisione funziona, diventa usare certi filtri ormai noti, o come certe cornici altre note, ormai note nelle foto, pacchiano come pacchiano usare gli effettini con i passaggi con le immagini che si dissolvono, le dissolvenze lunghe, le foto virate, ecco, diventa una pacchianata ormai usare i filtri che tutti usano. Quindi come si sta specializzando la maniera di fotografare attraverso le applicazioni che noi prendiamo dalla rete? Tutto i filtri su Instagram cominciano ad essere sempre meno utilizzati. In realtà Instagram è fatto da 17 filtri, per essere più precisi 16 più 1, dove l'1 è il no filter. E in realtà l'utente sempre di più fa la foto e la posta automaticamente. Quindi usa solo lo strumento e la condivisione, non gli interessa più filtrarla. Esatto, infatti Instagram non è più un'applicazione per fare le foto, è nata per fare le foto ed eventualmente condividerle, oggi è essenzialmente un social network, quindi è una piattaforma attraverso la quale io posso condividere le mie esperienze. Ecco, io volevo introdurre, Spoto, una persona che applica nella sua realtà quello che lei in questo momento aveva teorizzato. Monica Secondino, buongiorno. Buongiorno, molto ecco, piacere. Lei ha cominciato a fotografare i suoi vestiti con Instagram e da questo poi cosa è venuto? Per capire che noi siamo partiti altissimo dalla foto, dalla rappresentazione pittorica della realtà, dalla storia patria del Risorgimento fatta attraverso le foto artefatte. Ecco, arriviamo a Monica Secondino che comincia a fotografare i vestiti. Nulla di strano e singolare, ma da questo poi cosa è venuto? Allora, nasce appunto tutto con delle fotografie di cose che ho nell'armadio e che non utilizzo più, oppure dei regali sbagliati, insomma, delle fotografie proprio a degli oggetti del mio guardaroba. Che condivideva comunque attraverso Instagram. Assolutamente su Instagram, assolutamente. Io faccio parte di un team di ragazze di tecnologia, appassionate di tecnologia a Milano, che si chiama Girl Geek Dinners Milano, e quindi siamo sempre molto attente ai nuovi, diciamo, social media che partono, e Instagram ovviamente ci ha incuriosito fin da subito, e quindi tutte immediatamente abbiamo fatto l'account su Instagram e abbiamo cominciato a usarlo, chi in un modo chi in un altro, io anche in questo modo, facendo fotografie appunto ai capi di abbigliamento. Ho visto che la cosa ha creato molto interesse, curiosità. Erano i suoi vestiti, quelli di casa, del suo armadio? Sì, assolutamente, abbigliamento, accessori, borse, scarpe, cinture, sa, noi donne nell'armadio abbiamo veramente di tutto. Ma c'è il mercatino dell'usato del suo guardaroba? Sì, però in realtà trasmettevo delle emozioni, al mercatino dell'usato anche quando lei va, certe volte non riceve nessuna emozione, invece dalla fotografia di Instagram, come diceva Orazio, era un diario delle mie cose, dei regali sbagliati ricevuti, quindi con Instagram era un po' uno storytelling di un articolo, di un capo, di un regalo, e quindi è stato questo secondo me. Che anche perché il condividere e quindi il permettere ad altri di lasciare il loro commento significa contaminare fortemente l'oggetto iniziale della condivisione, diventava altra cosa il suo abito fotografato in camera sua rispetto a quello che diventava quando altri hanno visto, hanno messo il loro commento. E da questo cosa è nata? Un'attività commerciale? Da questo è nata l'idea con una mia amica appunto di mettere in piedi una società che si chiama Se lo fate, attraverso la quale si può ridare valore agli oggetti che abbiamo appunto nel nostro guardaroba. Quindi si può sia comprare che vendere abbigliamento, scarpe, accessori. Anche oggetti di lusso, non soltanto oggetti quotidiano uso, vedo. Noi ci siamo focalizzati su oggetti di lusso perché ci piace molto la possibilità del lusso accessibile. Diventa accessibile. Il lusso accessibile, ridare valore appunto agli oggetti che abbiamo nel nostro armadio, ci è sembrato proprio è la nostra filosofia, è il nostro motto, ed è quello che infatti attira moltissimo. Però per noi la fotografia è veramente fondamentale. A parte Instagram, noi attraverso le foto trasmettiamo appunto un'emozione che poi dà la ragione all'acquisto del prodotto stesso. Mi sembra molto chiaro, Monica Secondino. Voglio lasciare, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Le persone ci ascoltano, saranno intente in questo momento a fotografare cosa? Gli avanzi del pranzo del giorno prima, gli avanzi della cena, i ceci della tombola che stanno per fare o che avranno fatto, le bucce di mandarino sul tavolo, le loro pance satolle, i loro calzini sul divano stravaccati dopo la crapula festiva, insomma tutte cose che in realtà non avrebbero valore ma hanno un grande, immenso valore proprio perché condivise nell'esperienza di tutti, se fotografate, se filtrate, se condivise attraverso la rete. Alla prossima!